Thank you. Ecco la Nigar Shariati in compagnia del bravissimo chitarrista Gabriele Tommaso. Bene, nel frattempo la settimana scorsa c'è stata la conferenza stampa della 58esima Biennale di Venezia, che aprirà a maggio 2019 e che avrà il titolo May You Live in Interesting Times, che in italiano si può tradurre con che tu possa vivere tempi interessanti, interesting times, un periodo interessante, che effettivamente è quello che stiamo vivendo, un periodo interessante, politicamente più che interessante, un periodo un po' fascistante, ma sicuramente a livello di società e tecnologico e di comunicazione il momento è decisamente interessante. Dunque, dice, il nome viene da uno speech, sto leggendo su Art News come al solito, dopo su www.coxospaziale.blogspot.com troverete il link dell'articolo originale. Dicevo, il nome viene da un discorso fatto nei tardi anni 30 da Austin Chamberlain, un membro del Parlamento britannico, in cui lui citava quello che era sbagliatamente pensato come se fosse una vecchia maledizione cinese. Dopodiché Rugoff dice: at a moment when the digital dissemination of fake news and alternative facts is corrupting political discourse and the trust on which it depends, it is worth pausing whenever possible to reassess our terms of reference. Che malamente tradotto nel mio italiano volgare dice: in un momento in cui la disseminazione digitale delle fake news e dei fatti alternativi, tra virgolette, sta corrodendo il discorso politico e la fiducia che noi da cui dipende, ha senso fare una pausa ogni qualvolta possibile per ridefinire i nostri termini di referenza. Ovvero è un titolo che può dire tanto e può non dire niente, nel senso che naturalmente un titolo del genere ci permette di poter infilare più o meno tutti. Lui, come sapete, era il direttore, o forse lo ancora, della Hayward Gallery, che è una galleria che non fa strettamente arte contemporanea. Dopodiché l'ultima citazione nell'articolo dice: ultimately Biennale Arte 2019 aspires to the ideal that what is most important about an exhibition is not what it puts on display, but how audiences can use their experience of the exhibition afterwards to confront everyday realities from expanded viewpoint and with new energies. Ovvero, ultimamente la Biennale, cioè ultimamente nel senso per finire, la Biennale Arte 2019 aspira all'ideale che quello che è più importante della mostra non è quello che è in display nella mostra, ma come l'audience, il fruitore, può utilizzare l'esperienza della mostra dopo di questa per confrontare le realtà di ogni giorno con un punto di vista espanso e con nuove energie. Effettivamente io tutte le volte, indipendentemente dal discorso dietro alla Biennale di Venezia, tutte le volte che io assisto e visito una Biennale di Venezia sono molto energizzato da tutta questa creatività artistica che dà un sacco di input, ma questo perché io appunto sono un addetto ai lavori e naturalmente trovo un sacco di spunti per le mie opere d'arte, guardando l'arte di adesso di altri artisti, dei maggiori artisti del mondo. Mi chiedo quanto invece appunto questa nuova energia nel modo di vedere l'oggi il fruitore comune, quello che non è un creativo, cioè che comunque non è un addetto ai lavori, sarà in grado di carpire dalla Biennale dell'anno prossimo, che è un po' il problema appunto dell'arte contemporanea di oggi, ovvero il non comunicare abbastanza con un fruitore, con, adesso non volevo dire la casalinga di Voghera, ma con un fruitore che non sia appunto un addetto ai lavori. Io sono fermamente convinto che non si debba essere degli addetti ai lavori per fruire l'arte contemporanea, e spero che sarà così anche in futuro. How deeply are you sleeping, or are you still awake? A good friend told me you've been staying out so late. Be careful, oh my darling, oh be careful what it takes. From what I've seen so far, the good ones always seem to break. And I was screaming at my father and you were screaming at me. And I can feel your anger from way across the sea. And I was kissing strangers, I was causing such a scene. Oh, the heart, it hides such unimaginable things. Grab me by my ankles, I've been flying for too long. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. And I want you so badly, but you could be anyone. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. Hold me down, I'm so tired now. Aim your arrow at the sky. Take me down, I'm too tired now. Leave me where I lie. And I can tell that I'm in trouble when that music starts to play. In a city without seasons, it keeps raining in LA. I feel like I'm about to fall, the room begins to sway. And I can hear the sirens, but I cannot walk away. Grab me by my ankles, I've been flying for too long. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. And I want you so badly, but you could be anyone. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. Hold me down, I'm so tired now. Aim your arrow at the sky. Take me down, I'm too tired now. Leave me where I lie. I thought I was flying, but maybe I'm dying. I thought I was flying, but maybe I'm dying tonight. And I thought I was flying, but maybe I'm dying tonight. And I thought I was flying, but maybe I'm dying. So tired now, aim your arrow at the sky. Take me down, I'm too tired now. Leave me where I spaziale. Questo era Sky Full of Song di Florence and the Machine, e un cielo pieno di canzone. E invece quello che sentite di sottofondo è il traffico di Corso Cairoli a Torino. Sono di fianco al Po che mi scorre dietro e mentre il traffico mi scorre davanti. Probabilmente molti di voi hanno visto la finale del mondiale e probabilmente alcuni di voi si sono accorti, anzi sicuramente ve ne siete accorti, che c'erano ragazze vestite da poliziotti che hanno fatto un'invasione di campo, dopodiché la regia non le ha fatte vedere, ha fatto vedere veramente poco. E oggi appunto, navigando su artnet.com, scopro che erano membri delle Pussy Riot, questo gruppo di attiviste russe che suonano, cantano e fanno performance per i diritti delle donne in Russia, che hanno fatto appunto questa forma di protesta, questo questa invasione di campo come protesta, una di lei, Veronica Nikulshina, ha preso 15 giorni di galera e 3 anni è stata bandita per 3 anni da qualunque evento sportivo dopo la sua protesta. Fammi un po' vedere che cos'altro dice. Artnet racconta un po' la storia delle Pussy Riot, che appunto sono diventate famose nel 2012 per aver performato la canzone di protesta Punk Prayer sulle scale della cattedrale del Cristo Salvatore di Mosca. 3 del gruppo originale erano state convicted, come si dice, condannate per hooliganism, per hooliganismo, immagino che si dica in italiano, e 2 di loro sono state imprigionate fino al dicembre 2013. Il gruppo, the group latest arrests stem from what they've dubbed policeman enters the game. I nuovi arresti del gruppo sono, vengono da appunto la performance che loro hanno chiamato Policeman Enters the Game, e i poliziotti entrano nel gioco. Vestiti come poliziotti russi, Veronica Nikulshina, Olga Kurachova e Olga Pachusova e Piotr Vesilov sono entrati nel campo nel match, durante il match tra la Francia e la Croazia, e dopodiché appunto sono state subito presi d'assalto dai poliziotti russi e trascinate fuori dal campo. Un report iniziale ha indicato che loro 5 dovranno pagare una multa di fino a 20.000 rubli, che sono circa 2.700 euro, e 160 ore di community service, di quello che ha fatto Berlusconi, che doveva fare Berlusconi, servizio per la comunità. Le Pussy Riot, a seguito della performance, hanno fatto una serie di domande su Facebook. Numero 1, liberate tutti i prigionieri politici e liberate Oleg Sentsov. Numero 2, non imprigionate per i like, ovvero evidentemente in Russia stanno imprigionando persone per quello che piacciono su Facebook. Numero 3, smettete di fare arresti illegali nelle dimostrazioni, nei rallies. Numero 4, permettete alla nazione di avere una competizione politica. Numero 5, non smettetela di fabbricare accuse criminali e smettetela di tenere persone in galera senza nessun motivo. Questo era il motivo della performance di protesta delle Pussy Riot che abbiamo visto in tanti dal vivo durante il match Francia-Croazia, che ha vinto la Francia. Mi è un po' dispiaciuto, avrei preferito la Croazia. Anche se poi Salvini tifava Croazia, per cui da quel momento lì ho preferito la Francia. Ma insomma, voglio dire, esatto, è giusto suonare il clacson per dire che del calcio non me ne frega tanto. We must fight for, from the cities and the farmlands to trenches full of mud. War's always been the bosses' wiser. Brothers and our sisters in many far-off lands, there is power in a union. Now I long for the morning that they realize brutality and unjust laws cannot defeat us. But who'll defend the workers who cannot organise, when the bosses send their lackeys out to cheat us? Money speaks for money, the devil for his own. Who comes to speak for the skin and the bone? What a comfort to the widow, a light to the child. There is power in a union. Questo invece era Billy Bragg con There is Power in the Union, se non sbaglio. Adesso sto andando un po' a memoria, visto che sono ancora nella soleggiata Torino. Invece mi dicono dalla regia che c'è un intervento di Fedra. Io adesso non ho la più pallida idea di che cosa sia, perché non l'ho ancora sentito, ma lo preannuncio. Eccolo qua, un intervento di Fedra. Chissà se fa parte dell'angolo della menzione oppure no. Chissà chi lo sa, non ci interessa, eccola qua. Bella atmosfera. Sì. Ciao Riccardo Leone. Ciao Fedra, ciao. Felice di trovarti qui al Coxo, una bella sorpresa inaspettata, perché è un sacco che io ti do la caccia, sai? Ah sì? Sì. Mi dispiace, avrei voluto ascoltare di più, ma qui al Coxo il tempo è sempre tiranno, come sappiamo. Io sì, ti cerco perché so che ormai è un annetto e più che hai cominciato a fare delle pratiche abbastanza particolari, e sai che io sono molto molto interessata alle pratiche del corpo, soprattutto quelle che ti aiutano a trovare un approccio sincero, forse, diciamo, con la logica del presente, il proprio ascolto. E mi sembra di aver sentito qualche uccellino, mi ha raccontato che questa era proprio la direzione in cui da un anno a questa parte tu stai affondando la tua ricerca. Sì. Un attimo, scusami, perché io sono tutta contenta che lo so, lo sto cercando. Lui è Riccardo Leone, che è un danzatore di base bolognese, non solo danzatore ma poi molto altro. E io però l'ho conosciuto come danzatore prima, quindi il primo incontro non si scorda mai. Ed è qui al Coxo proprio per raccontarci di questo nuovo approccio al movimento e alla danza. Sì, e quindi... Sì, è giusto, hai colto nel segno. In realtà è quello che penso di tutte le arti, penso che siano tutte, che in qualche modo tutte mirino a quello, all'idea, un'idea di utilizzo dello strumento come presenza, insomma, per trovare una presenza di se stessi un pochino più ampia di quello che... Quindi è una riflessione che proprio affonda le radici sul tema dell'arte con la maiuscola, proprio sì. L'arte come percorso di ricerca che aiuta l'umano ad essere più umano, forse. Questo è quello che penso io, perciò cerco sempre di infilarcelo. Sì, sì, a trovare canali di comunicazione che possano essere il più diretti possibile. E quindi in questo caso, nel caso di appunto questa disciplina che io ho in maniera molto semplice chiamato danza yoga o danza preghiera, poi vi spiegherò perché, l'attenzione e la comunicazione avviene soprattutto probabilmente verso se stessi. Quindi quello che l'arte normalmente tende a fare, che è appunto in una via di chiarezza comunicare dei messaggi, degli stati o quello che è una propria idea, e questa disciplina di movimento, questo sistema che è diventato adesso, è una sorta di modo, maniera per fornire strumenti di orientamento all'interno di un discorso che è quello del movimento, che è molto vasto, infinito, come studio dei fattori di movimento e tutto, e per cui tende a fare in modo che le cose, e i fattori di movimento, che possono essere la consapevolezza del corpo e come si utilizza, diventino in qualche modo strumenti di coscienza del presente. Quindi, giusto perché il Coxo si occupa d'arte a 360 gradi e oltre, stiamo scoprendo anche nuove dimensioni che esulano il cerchio. Stiamo andando un pochino a dirigerci su quella che è l'arte nel rapporto con il corpo. Non proprio la coreutica, ma insomma non è che si tratta di pittura o forse anche di quello. Beh, la pittura è qualcosa che in questa disciplina non è contemplato, però comunque c'è di base una verità, per come la sento io in questo momento, che accomuna la pittura e la musica, le arti, questa danza e la danza in generale, che è quello di fare se stessi veicolo di un qualcosa che va oltre se stessi. Ok. Ecco, che è quello poi che, secondo la mia opinione, il mio punto di vista, ogni essere umano interiormente tenderebbe a fare, ecco. Beh. Poi dopo ci sono tante variabili che non consentono o consentono di fare che questo si realizzi, ecco. Innanzitutto faccio una bella parentesi coxica, che sono la mia specialità, e per freddarti sul nascere dico una cosa che non c'entra niente, ovvero che ti conosco da tanti anni ma non pensavo che tu avessi una voce così radiofonica. È bellissimo ascoltarti con le cuffie. Non penso la stessa cosa, nel senso che comunque c'ho tutte le S e le C del caso. No, che... no, ma il timbro della voce è proprio ha una bella corposità. Complimenti, okay. Complimenti. Infatti già buttiamo avanti che ritornerai più avanti a ritrovarci, anche perché devi sapere che chi sale sul Cox una volta è un coxonauta per la vita, quindi prima o poi ti toccherà di nuovo. Ritornando invece a monte, questa disciplina di cui abbiamo un po' filosoficamente attraversato quelli che possono essere gli scopi, le urgenze, abbiamo detto che ha un nome. Sì, che è danza yoga o danza preghiera. E prima, nelle anticipazioni, perché questa parola preghiera a noi occidentali è un po' una roba, sì, che risulta un po' bigotta. La guardi e dici. Questa preghiera, invece, parlando prima, mi hai un po' raccontato che cosa significa. Sì, ho una, come dire, in me un'idea di preghiera che è funzionale alla spiegazione dello scopo, che è questo. Allora, immaginando che una preghiera sia un momento in cui una persona si rivolge a un'entità che può essere dentro di sé, fuori di sé, l'universo, ciascuno ha il suo. Se si presuppone, si dà per vero, che quindi se uno fa una preghiera lo è, che questa entità esista, si deve supporre che per questa entità ciascuno, tu, io, non abbia nessun segreto. Quindi io per il mio Dio non ho segreti, così come tu per il tuo, cioè esatto. Ci legge proprio come se fossimo in filigrana, esatto. Oppure insomma ci decripta come se fosse un hacker. Sì, esattamente. Per cui la mia idea è stata, come ti poni davanti a parlando con una persona che tu sai benissimo, per cui per lui non hai nessun segreto. Ti porrai davanti a questa persona quindi in maniera per forza onesta, super onesta, se, togliendo tutto quello che hai in più, tutto quello che tu sai intimamente, oltre a te stesso, essere menzogna, inutile sforzo, nascondere. E quindi questo stato di sincerità e di abbandono della sovrastruttura, della costruzione che ciascuno ha di sé, è quello cui mira raggiungere il praticante della tua disciplina. Sì, in realtà non mira a raggiungere. Esatto, che le aspettative sono sempre, esatto, delle brutte bestie. E soprattutto perché è proprio per il fatto che si parte dal presupposto che non esiste un qualcosa che è così e basta, così come non esiste nei fatti della vita, ma a maggior ragione non esiste come fatto di presenza, legato alla presenza. Non c'è una cosa che tu puoi riconoscere come sì, io sono questo. È continuamente mutevole e quindi devi avere strumenti per essere agevolato nel trovare una tua dimensione di vuoto presente che ascolta tutto ciò che scorre. Con come queste dire. Parole mi sa che ci stiamo addentrando in campi di discipline orientali. Sì, lo è un po', ma infatti io quando ho intuito che questa cosa era possibile, unire la danza e lo yoga, sono stato anche molto restio dal farlo, perché mi sembrava di dissacrare una forma di movimento che è un qualcosa di comunque legato molto allo spirituale. E quindi in un certo momento mi sarebbe sembrato di dissacrarla. Poi a un certo punto invece, praticando e cercando in questa forma, in questa disciplina, mi sono reso conto che io stesso cercavo di fare in modo di trovare questa presenza all'interno. Questo appunto non vuol dire che io l'abbia raggiunta. No. Però continuamente con il termine presenza invece ritorniamo su un territorio che mi è più comprensibile e che secondo me è al fulcro di tante attività che sono, diciamo, relegate alla sfera artistica, ma che in realtà la pratica di queste discipline potrebbe avere anche una bella ricaduta sul mondo che chiamiamo quotidiano, reale, insomma, come se le due cose fossero separate. Assolutamente. Ma a questo punto, visto che prima abbiamo parlato di cose che potrebbero ricordarmi lo yoga, la meditazione, tutte queste cose di cui io ho grandissima stima, ma sento una stima talmente grande che mi frena a... Ma vuoi dirmi che, cioè, se io avessi voglia di provare ad avvicinarmi alla tua disciplina, se non ho fatto yoga e meditazione non posso venire? No, assolutamente no, posso è il contrario. Certo, ah, è il certo contrario, che bello, sì, mi piace sì, ancora sì. di più. Certo che sì. Fammi un esempio, non so se però si svela troppo. Mi potresti fare un esempio di un esercizio tipo oppure si svela troppo? Se si svela troppo no, No, una lezione tipo si basa principalmente sul cercare uno stato legato al respiro. Ok. Quindi mentre la persona, l'allievo, respira, il suo corpo farà dei piccoli movimenti o grandi movimenti, che in qualche maniera l'idea è quella di arrivare a concepire la struttura fisica che si appoggia su se stessa, su geografie di movimento, su dinamiche di movimento. È per questo che c'è lo yoga in mezzo, perché lo studio quindi parte dallo studio delle asana dello yoga. Oddio, cosa sono le asana? Le asana sono le forme dello yoga. Ah, ok. Sì, e perché... Sono proprio super ignorante. Scusatemi, tutte faccio ammenda, mi dichiaro. È così, però ho tanta voglia di imparare. Dovrai venire per forza. Sì! Yes. E quindi perché le forme dello yoga, le asana, sono in qualche modo forme che tendono a creare strutture architettoniche col corpo, in modo tale che lo sforzo per ogni singola forma sia il minimo indispensabile per quella singola forma. Poi ci sono forme che richiedono uno sforzo, certo, altre che ne richiedono meno. Wow, vista così ci capisco di più, sai, ti ringrazio tantissimo, mi hai aperto una finestra che è una linea di lettura per questa cosa che per me era un cosmo quasi fluttuante, in cui capivo e ammiravo, insomma, rispettavo, però Non avevo strumenti. Invece mi ha dato una bella porta d'accesso. La struttura la capisco. Senti, purtroppo qua il tempo comincia a stringere. E quindi, ricapitolando un pochino, tu da un anno hai cominciato a individuare e a praticare questa tua disciplina. Sì. Che abbiamo detto che si chiama danza yoga o danza preghiera. Questa preghiera intesa come ce l'hai descritta poc'anzi. Sì, esatto. E se per far qualcosa, cioè nel senso, adesso è estate forse, quindi anche tu vai in ferie, oppure sì, no? In questo momento non sto insegnando, anche io sto facendo pausa, in realtà non sto facendo pausa perché mi sto preparando a un evento. Mi piace l'evento. Che è appunto di presentazione, perché comunque necessita di una presentazione. E che è un evento facoltativamente residenziale, cioè sarà il 21, 22, 23 settembre. Quindi più giorni, ho sì, capito. 21, 22, dove 23 lo fai? Settembre. Dove lo fai? Presso i meravigliosi spazi del fienile del San Lorenzo in collina. Che fa capo all'associazione Il Volo. Ah, ok, bellissimo, sì. Si sta benissimo da quelle parti. Sì, esatto, c'è una grande palestra, un grande spazio palestra con le vetrate, tanto spazio intorno dove rilassarsi. E quindi questi tre giorni sono tre giorni di intensissime attività, tutte finalizzate in qualche modo a fare esperienza di noi stessi mentre facciamo delle cose, di uno stato, so che risulta in qualche modo presuntuoso, ma potremmo chiamarlo uno stato di presenza. Esatto, alla ricerca di attimi di presenza. Che quindi questa è una cosa che potenzialmente è molto interessante anche per tutti quelli che fanno performance o teatro. Assolutamente sì, sì. Soprattutto sì. Teatro fisico. Sì, perché l'idea è proprio quella d'attore. Di nel movimento riuscire, attraverso gli strumenti che dà la tecnica, riuscire a fare un pochino di pulizia rispetto a tutto ciò che è in più, come sforzo emotivo, come pensiero. E con sforzo emotivo io ci metto, cioè io leggo gli psicologismi che spesso sì, inquinano un po' una comunicazione che altrimenti potrebbe essere più piena. Sì, però vengono anche piena. Dal fisico, dal sì, corpo, certo. Perché ci sono dei blocchi che sono proprio anche, appunto, che dallo psicologico arrivano poi al somatizzarsi nel fisico, di cui magari siamo un pochino meno coscienti di quelli, come rigidità, e che attraverso appunto l'idea di basare sulla struttura l'atto di presenza, struttura fisica, quindi in qualche modo sperimentabile, e poi sul dissolvere questa struttura o passare a un'altra struttura, in questi passaggi i blocchi in qualche maniera si sciolgono. Questa è l'esperienza che io ho del movimento. Ma sì, che di questo. Figata, sono ancora più contenta di esserti riuscita a brincare per il codino, perché voi non lo sapete, ma cioè, nel senso, lo sapete se lo conoscete, ma c'ha il codino, lo si può brincare, ed averti portato qua in radio il non lo so che giorno è perché siamo in registrato di luglio, fa un caldo micidiale qui e infatti siamo anche tutti belli mezzi nudi. Riccardo Leone è a torso nudo, ragazze, qui è proprio una questione da, non lo so, calendario Pirelli per noi donzelle, cioè va bene, quindi scusate, questa era una piccola parentesi, c'è tanta gnoccanza, detto vabbè. Questo, ritornando a noi, ci risentiamo presto perché settembre sì. In realtà è in là, però è qua ormai, perché sì, appunto un evento dico di solo questa il nome, portata. Il nome dell'evento che è Incrociarti, cioè Incroci Arti, appunto che perché... Che sciocca, io mi sono persa sul pettorale non e non mi ero accorta che non avevamo neanche detto il nome. Va bene, vado un attimo faccia al muro, intanto che tu magari fai una breve presentazione del titolo e ripeti le cose, poi torno dopo la mia pulizione. Ok. Quindi Incrociarti è un evento che è principalmente dedicato all'arte, allo yoga e all'incontro tra queste cose e tra le persone. Ha anche un obiettivo a lunga scadenza che in breve scadenza vi esporrò, ma non adesso. Sì, ci viene a trovare di sicuro a fine agosto, i primi di settembre, che entriamo più nel merito, magari anche con una bella puntatona dal vivo, tutta dedicata. Certo. E questo evento, invece, se cominciamo già a segnarcelo subito, avrà luogo dal 21 al 23 settembre qui a Bologna. Sì, San Lorenzo in Collina, vicinissimo a Bologna. A godersi un po' di quella bella stagione, che è l'ultima parte, l'ultimo pezzo di bella stagione che ci è rimasta a Bologna, è o la primavera o l'autunno verso settembre, perché esatto, adesso si sta proprio schiumando. Sì, adesso ho idea che con il ritardo di questa stagione, al 21, 22 e 23 settembre inizierà una nuova stagione. Sì, meravigliosa. Grazie mille Riccardo Leone per essere stato qui al COXO con noi e ci sentiamo prestissimo, quindi, e poi ti si può seguire su Facebook, perché se metti mai che ci sono delle pratiche da esterni, non lo so, sì, e sì, chi sì, lo sì, sa sì, mai se noi ci andiamo. Certo, Incrociarti per adesso ha una pagina su Facebook che è ridicola, ma sarà arricchita poi di contenuti di ogni tipo da qua a settembre. Evviva! Grazie Fede. Ci risentiamo presto sul COXO e da domani su www.coxospaziale.blogspot.com tutti i link per riuscire a seguire anche in questa torrida estate e durante le vacanze i percorsi di Riccardo Leone. Grazie mille, gentilissima Fedra, è un onore stare qua. Esagerato. Okay. Eh sì. Va bene. Ascoltando COXO Spaziali. Questo era OBV con la O, con il trattino in mezzo come in Norvegia o come nel diametro. Il pezzo si chiamava Gave de Pau e era lunghissimo, e infatti sia il pezzo di Fedra che questo erano così lunghi che Coxo Spaziale è finito, per cui io vi do appuntamento a venerdì prossimo, sempre alle 8 di sera, sempre su Radio Città Fujiko 103.1 FM, e niente, ci sentiamo il 27 luglio. Buona serata e buon weekend. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Coxo risponde.